Storia italiana è un racconto per immagini di come siamo noi italiani e di come ci vedono da fuori. Il percorso si snoda attraverso 8 sale, dalle nature morte ai paesaggi, dal tema delle facce ai gesti fino a quello del viaggio, ma al tempo stesso appare come un luogo intimo e senza dubbio la più grande novità dell'edizione 2013 di Arte Fiera e si inserisce anche polemicamente nell'intento di riscattare il ruolo dell'arte visiva italiana all'estero. Lea Mattarella, assieme a Laura Cherubini, ne è la curatrice. Tutta un gruppo di artisti straordinari che in Italia sono sottostimati, che non sono conosciuti all'estero e che invece sono dei grandissimi artisti. E nonostante le difficoltà contingenti, per quest'anno l'arte moderna e contemporanea rappresenta uno dei migliori investimenti, anche quelli dalle cifre non troppo elevate. Ci sono opere appunto di giovani, ma anche opere, è vero, di artisti degli anni 50 e 60 che con meno di 10.000 euro le puoi comprare. E certamente è un investimento, ma è anche qualcosa che appunto che ti arricchisce la vita. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.